Guarda quello che odi, viaggiare tra le nuvole, viaggiare tra le strade, viaggiare tra mari e arrivare in quei campi per fare il tuo lavoro, per lasciare il tuo sudore in diversi campi. Guarda quello che offri e incontra lo sforzo e la stanchezza, se necessario, così è. Maschiera la tua strategia, distribuisci i contrappesi, hai sigillo a sorpresa, non sprecare il tuo sforzo, tanto meno il tuo stanco. Maschiera la tua strategia, che anche conosciuta, trionferà sempre attraverso il buon gioco. Non sempre si parla con le parole, non sempre si fissa la postura quando si parla. Avete della vostra strategia e visione, che la missione in carta non può rimanere, perché cambia con i venti, e con i venti deve adattarsi. L'impegno non è con i risultati, l'impegno è con il lavoro, e questo ti porta al risultato, ci ti deve portare. Guarda quello che offri e incontra l'sforzo e la stanchezza, se necessario così è. Ci sono alcuni che mostrano la loro passione nel fisico, ci sono altri che mostrano la loro passione quando pensano, ci sono altri che li mescolano. Schiera la tua strategia, distribuisci i contrappesi, hai il sigillo e sorpresa, non sprecare il tuo sforzo, tanto meno il tuo stanco. Guarda quello che offri. Cesare, il cavaliere.